Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. La ricerca e la fuga dei cervelli oggi è al centro della nostra puntata. Lo facciamo parlandovi della storia di un microbiologo che ci ha provato a farsi strada in Italia, ma ha ceduto di fronte all'impossibilità di andare oltre il classico co-co-co. Così ha optato per cercare fortuna in Gran Bretagna, dove in 3 mesi ha trovato lavoro in un prestigioso centro di ricerca. Oggi vi daremo pure numeri inquietanti sulla situazione giovanile in Italia e vi porteremo a Boston per conoscere la nostra qualificatissima comunità professionale d'oltreoceano. Ma torniamo alla storia della settimana. Come si trova lavoro oltremanica? Tramite internet. Contatto un'agenzia interinale che recluta personale per la sanità pubblica e appena ottengo la registrazione, puff. Immediatamente. Come per magia. Massimo Mentasti, 33 anni, è un ricercatore biomedico al Center for Infections di Londra. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. Abbiamo un difficile ricambio generazionale per questioni demografiche. Ampio spazio oggi all'allarme giovani lanciato martedì dal direttore del Censis Giuseppe Roma che avete ascoltato. I giovani sono in via di estinzione. Negli ultimi 10 anni abbiamo perso più di 2 milioni di cittadini di età compresa tra i 15 e i 34 anni. Così Roma che ha spiegato come i dati italiani siano i peggiori insieme a quelli tedeschi. Nello stesso periodo sono aumentati di quasi 2 milioni gli over 65. Grave anche il quadro formativo per il Censis, abbiamo il maggior numero di ragazzi under 24 impegnati nella formazione eppure pochissimi laureati. Ha una laurea solo il 3,1% dei 15-24enni e il 20,7% dei 25-34enni. In Italia, secondo Roma, la laurea non paga. I nostri laureati lavorano meno di chi ha un diploma. Nel bel paese lavora infatti il 66,9% dei laureati under 34 contro una media europea dell'84%. L'Italia ha infine il record di inattività volontaria. In questa condizione si trova l'11,2% dei ragazzi under 24 che non sono interessati a lavorare o studiare. Il dato è superiore di oltre 3 volte la media europea. Rincara l'Eurispes, il 20% degli italiani è troppo qualificato per il lavoro che svolge a 3 anni dal completamento degli studi. Così il presidente Gianmaria Fara, secondo cui la laurea non è sinonimo di stabilità lavorativa. La coerenza tra titolo di studio e lavoro svolto è dichiarata solo da metà dei laureati. Intanto è giunto all'ultimo giro di boa il decreto attuativo del bonus fiscale per il rientro dei cervelli in Italia. Il testo del decreto che consente l'attuazione della legge contro esodo per entrare in vigore deve superare l'esame della Ragioneria Generale dello Stato. Molti dei nostri migliori talenti se ne sono andati. Il mercato estero rappresenta una scelta obbligata perché il nostro mercato è sempre più piccolo e conflittuale. Questa è la denuncia del presidente dei giovani imprenditori dell'ANCE e costruttori edili Alfredo Letizia nel corso di un convegno dal titolo Vado o resto? Sentiamo Letizia. Purtroppo prima si pensava al fuggire come opportunità, adesso è diventata una necessità. Purtroppo oggi lavorare nel nostro paese è difficile, per un giovane lo è ancora di più. Per cui si comincia a guardare l'estero con un occhio completamente diverso. Da questo convegno è emersa qualche possibile soluzione? Da questo convegno ne sono emerse tante di soluzioni, perché ci siamo resi conto che probabilmente l'Italia non è il paese migliore in cui lavorare. Ci siamo resi conto che probabilmente le nostre energie spese all'estero potrebbero dare anche dei risultati completamente diversi. Quello che noi riteniamo sia oggi necessario è un rinnovamento delle classi dirigenti. Bisogna affrontare, secondo noi, il futuro in maniera completamente diversa, con delle idee assolutamente più innovative. Non si può pensare che il modello che oggi abbiamo noi di politica, di azienda, di dirigenza, un po' di tutto, sia il modello che porti fuori da questo periodo di crisi. Bisogna che una serie di giovani si mettano un pochettino insieme e pensino che il futuro è oggi, se non addirittura ieri. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo. Un Director of Advocacy and Policy al Consiglio Europeo dei Rifugiati ed Esiliati a Bruxelles, scadenza per i CV 27 maggio, info su ecre.org. Un capo della comunicazione al Central Europe Program di Vienna in Austria, scadenza per i CV 24 maggio, info su central2013.eu. E infine il governo australiano offre borse di studio a studenti e professionisti stranieri con il programma Endeavour Awards, scadenza per i CV 30 giugno, info su studyinaustralia.org. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta a Londra, cuore e crocevia di tante storie della nuova e giovane emigrazione professionale italiana. Nome: Massimo. Cognome: Mentasti. Età: 33. Città di origine: Genova. Studi: biologia, microbiologia e ora biologia molecolare. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2008. Per andare dove? Londra. Perché? Per essere artefice del mio destino. Quale lavoro svolgi attualmente? Biomedical scientist. Dove? Centro malattie infettive. Tornerai? Non dipende da me. Mind the gap. Please leave the train. Please note that this train will not stop at the next station. Thank you. Voci della metropolitana di Londra per tuffarci in qualche modo nell'atmosfera della capitale inglese e nella storia di Massimo. Quando mi sottoposi a diversi colloqui in Inghilterra, non appena arrivato oltre Manica, la cosa più difficile da spiegare fu il fatto che in Italia, dopo 9 anni di università, io non avessi ancora un lavoro, ma un co-co-co. Un'impresa fu pure spiegare cosa fosse questo contratto. Così scrivi Massimo a giovanitalenti@radio24.it. E qui mi riallaccio a una domanda che tu poni alla fine del 2007. Quando ti trasferisci, praticamente iniziai a meditare l'idea di trasferirmi all'estero per giocarmi le mie carte, per vedere se quello sbagliato fossi io o il sistema italiano. Dopo oltre 3 anni, qual è la risposta al dilemma in tutta onestà? La risposta si dà in 3 mesi, i 3 mesi che mi ci sono voluti a trovare lavoro in Inghilterra, nella sanità pubblica, quindi molto meno di 3 anni. Chiarissimo. Partiamo dall'università. A quale facoltà ti iscrivi dopo il liceo scientifico e perché? Scrivo a biologia perché è una facoltà che sentivo mia ed è stata fondamentale sia per il mio percorso professionale sia per il mio percorso personale, perché essendo ateo, altri discorsi, le teorie di Darwin si sposano perfettamente con quello che sono io. Nel 2002 ti laurei in scienze biologiche con lode. Quale giudizio dai a posteriori del percorso di studi? Soddisfatto o no? Assolutamente sì. L'università italiana, quantomeno il vecchio ordinamento, non ha niente di meno delle università straniere, anzi molto di più. Molti dei professori sono assolutamente dei professionisti. Tu opti per la carriera clinica, perché? Perché durante l'internato di laurea capisco 2 cose. Uno, non sono interessato alla ricerca, ma quantomeno non alla ricerca pura, ma alla ricerca applicata. E in secondo luogo, durante l'internato della tesi, capisco che in università non c'è futuro. Ti iscrivi alla scuola di specializzazione in microbiologia e virologia, sempre a Genova. Tra l'altro arriva la prima sorpresa perché scopri di non aver diritto ad alcuna borsa di studio, quindi altri 4 anni accademici gratis. Esatto. Ma almeno le esperienze formative in questa scuola si rivelano utili, raccontaci. Assolutamente sì, non sarei dove sono adesso senza aver fatto la specialità e la mia esperienza da tirocinante. Il primo anno di tirocinio fu all'azienda ospedaliera Villa Scassi di Genova e rimanenti 3 anni presso l'istituto Giannina Gaslini, sicuramente l'esperienza professionale più importante della mia vita. Esperienza molto importante, però a livello contrattuale è il tuo primo e unico contratto in Italia, lascia forse un po' a desiderare perché alla fine ti ritrovi con un co-co-co da 15.000 euro lordi l'anno, esatto. Poco più di 1.000 euro lordi al mese. Meno, ecco, infatti. Ti scopri insomma un precario a tempo indeterminato, questa è la definizione che dai di te stesso e che calza molto bene. Vogliamo spiegare cosa facevi in cambio di 1.000 euro lordi mensili, quali e quanti incarichi di responsabilità avevi in Italia? Diciamo che finché sono stato tirocinante le responsabilità molto poche, perché comunque ero studente in formazione. Una volta finita la specialità sono stato, come dire, fortemente incoraggiato alla firma dei referti. Firmare un referto significa valutare se il risultato di un test è compatibile col quadro clinico di un paziente e assumersi la responsabilità del referto. Ed è questa la differenza tra un tecnico e un dirigente. Peccato che il mio stipendio fosse inferiore a quello di un tecnico. Per 2 anni non ti rassegni e provi a dare una svolta alla tua carriera. 2 concorsi e la scoperta che passa chi deve passare. Allora ci spieghi come funziona il meccanismo perverso e nefasto della raccomandazione all'italiana tanto a destra come a sinistra? Sì, esattamente. I 2 concorsi sono stati fatti in 2 regioni amministrate dal centro-destra e l'altra dal centro-sinistra, quindi la situazione è la medesima per quanto mi riguarda. Il sistema della raccomandazione è così fatto: mettere una persona capace e preparata in un lavoro, questa persona è una persona indipendente che non deve rispondere a nessuno. Mettere qualcuno, diciamo perché non se lo merita o perché comunque conviene mettere questa persona, è una pedina, una persona che può essere manovrata a proprio piacimento. Mi sono rotto, io mi sono rotto, non ho più voglia di abitare lo stivaletto, non ha più senso rimanere, grazie di tutto. Aspetto ancora fine mese, poi mi rimetto. Dopo 9 anni di studi universitari e anni di esperienza sul campo, svegliarmi un giorno a 40 anni con un co-co-co sarebbe stato un fallimento per me e per la società, tu scrivi in una email che sembra ricalcata sul testo di Precario il mondo di Daniele Silvestri. E cosa risponde il tuo primario quando gli annunci che te ne vai? Giorno indimenticabile, 5 febbraio 2008. Entro nell'ufficio del primario per dirgli che mi sarei trasferito a Londra, la risposta fu chiara: bravo, avessi la tua età a fare lo stesso. Ma scusa la provocazione. Ecco, scusa la provocazione, ma com'è che queste classi dirigenti più anziane di noi, anziché compatirci e invogliarci alla fuga, non ci aiutano a restare lavorando per porre le basi di un'Italia diversa, giovane, innovativa e meritocratica? L'Italia non è meritocratica, ma è gerontocratica. Il giovane è visto come, come dire, forza nuova per il lavoro, non come una risorsa per il futuro. Nel marzo del 2008, armato del tuo solo curriculum e precisi senza raccomandazione, arrivi a Londra, ti registri come biomedical scientist all'albo professionale per le professioni sanitarie non mediche e cominci subito a lavorare per il Lister Hospital a Stevenage. Come ci arrivi? Tramite internet. Contatto un'agenzia interinale che recluta personale per la sanità pubblica e appena ottengo la registrazione, immediatamente. Come per magia. Cosa impensabile in Italia, e inizi i colloqui, tra l'altro per migliorare però le prospettive di carriera, e scopri subito che la raccomandazione italiana in Inghilterra non può funzionare. Perché? Per un motivo molto semplice: in Inghilterra quando si fa domanda per la sanità pubblica intanto si fa domanda online, niente raccomandate con ricevuta di ritorno, e chi fa la selezione riceve solo le esperienze e le qualifiche di chi manda la domanda, non vede dati personali. In pochissimi mesi ottieni un contratto come Project Scientist al Center for Infections, centro riconosciuto a livello internazionale. Di cosa ti occupi esattamente, e soprattutto ora lo stipendio è giusto, parametrato sulle tue competenze finalmente? Mi occupo di infezioni da legionella, il laboratorio dove lavoro è tra virgolette il centro europeo di riferimento per infezioni da legionella. Diciamo che lo stipendio è abbondantemente adeguato a quelle che sono le mie qualifiche. Aggiungiamo anche che dallo scorso autunno sei studente part time in un master alla Westminster University di Londra, tre quarti delle tasse le paga la sanità pubblica inglese, e la domanda è: ti incoraggiano a formarti e migliorarti in Gran Bretagna allora? Più che un incoraggiamento è un obbligo, se non ti formi non fai avanzamenti di carriera. Il problema però è pure culturale in un certo senso, perché tu ci scrivi: qui ho la certezza che il mio futuro e la mia carriera sono diretta conseguenza del mio impegno. Allora, Massimo, quali ostacoli in Italia impediscono il concretizzarsi di questa semplicissima equazione? Il giovane non è visto in Italia come una risorsa per il futuro. L'importante è mantenere certi equilibri e certe cose. Poi magari di qui in prospettiva questo modo di fare a 20 anni rovinerà questo paese, ma questo è un altro discorso, no? Non sarò in Italia per vederlo. Domanda diritto, Massimo: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? La mentalità degli italiani. Dall'estero si vede chiaramente la mentalità poco lungimirante dell'italiano medio. L'italiano medio è il tipico che va sul carro del vincitore, che cerca la scorciatoia, è la classica persona che ti bacia la mano e il giorno dopo ti bombarda. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Massimo Mentasti, 33enne Project Scientist al Center for Infections di Londra, centro di riferimento in Inghilterra e Galles per le infezioni. Massimo vi è giunto dopo una laurea con lode in scienze biologiche a Genova, una specializzazione in microbiologia e virologia all'Università del Capoluogo Ligure e 4 anni di lavoro, prima come tirocinante, poi come co-co-co alla strabiliante cifra di 15.000 euro lordi l'anno. 2 concorsi tentati in Italia, dove è passato chi doveva passare, poi la decisione di lasciare il bel paese e giocarsi il tutto per tutto in Gran Bretagna. Oltre Manica giunge 3 anni fa, dopo 3 mesi viene assunto senza raccomandazione. E ci raggiunge ora in linea la professoressa Giovanna Riccardi, docente di microbiologia all'Università di Pavia e presidente della Società Italiana di Microbiologia Generale. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Professoressa Riccardi, il trade union che la unisce alla storia di Massimo risale agli anni dei suoi studi a Genova, quando lei insegnava nel capoluogo ligure. Ci racconta cosa la colpì di Massimo? Ho colpito la sua acutezza. Generalmente durante le lezioni di microbiologia io faccio delle domande di ragionamento, in aula ho sempre un centinaio di studenti, in questo modo ho la possibilità di identificare quelli che sono particolarmente adatti per il ruolo del ricercatore, e in genere ne individuo 2 per anno. Massimo è stato reclutato in questo modo. Quanti Massimo Mentasti ha visto emigrare negli ultimi anni, dopo il tempo e le risorse spesi dalle nostre università, dalla sua università e dai nostri professori per formarli? Tornano a volte o restano all'estero? Io ne ho visti tantissimi, solo dal mio laboratorio almeno una decina, uno dei quali ha un permanent position, cioè un ruolo fisso all'Istituto Pasteur di Parigi, e non ne ho visto nessuno tornare purtroppo. Ha un messaggio per questi giovani ricercatori che sono fuori? Ho un messaggio per i miei colleghi, più per i ricercatori, che bisogna fare di più. Bisogna anche, secondo me, entrare nel mondo della politica, ma entrare nel mondo della politica non per andare a fare il senatore, l'onorevole, ma per avere l'aggancio, tra virgolette, per far capire loro che tenere qui i ragazzi è importante per il nostro paese. A proposito di politica, il governo ha recentemente presentato il Piano Nazionale per la Ricerca 2011-2013, 1,7 miliardi concentrati su 14 progetti prioritari. Lo giudica un primo sforzo nella giusta direzione o c'è ancora molto lavoro da fare? Io non dispero, speriamo che questo alla fine pagherà in qualche modo, però guardiamo i fatti. Il Fondo Ministeriale 2008, io ho fatto domanda, sono stata finanziata dopo una selezione durissima, chiedevo 70.000 euro, me ne è andati 21, con 21.000 non riesco a fare granché. Parliamo poi della legge Gelmini, la legge Gelmini ha di fatto bloccato per diversi mesi il reclutamento dei giovani ricercatori, perché non si può più assumere con le vecchie regole, non sono pronte le nuove regole, per non parlare delle famose abilitazioni nazionali, perché dobbiamo stabilire criteri per i commissari, poi saranno sorteggiati, poi i criteri per i candidati, chissà quando partirà la prima tornata, è tutto complicato, qui si rendono difficili le cose facili. Che futuro ha un paese, parlo di sistema paese in questo caso, che non investe in ricerca e sviluppo, che non promuove e valorizza i suoi giovani ricercatori? Nessun futuro, perché chi vuole investire nel proprio lavoro vedo che se ne deve andare all'estero. Però vorrei concludere con una battuta, cioè la ricerca italiana è sempre stata in difficoltà, ma nonostante questa ha continuato e continuerà a sfornare eccellenti scienziati. Peccato che i frutti li raccolgono i paesi stranieri. E quindi io voglio dire che l'università pubblica, la tanto vituperata università pubblica, i cui finanziamenti non arrivano, io i finanziamenti li prendo dalla comunità europea, se dovessi lavorare con i finanziamenti italiani chiudo bottega, faccio delle piastre e chiudo lì, far capire che l'università pubblica ha degli ottimi docenti, ha delle persone che lavorano, ha degli ottimi studenti e sforna degli ottimi laureati. Grazie alla professoressa Giovanna Riccardi. E domanda di rito per chiudere a Massimo Mentasti: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà, che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Andate. E il discorso è volere e potere, se si vuole andare fuori si va fuori. Gli altri due consigli sono assolutamente internet, è stata la chiave di volta per dare un cambio alla mia carriera, e assolutamente l'inglese. Siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi continuiamo la nostra inchiesta a puntate sulle città della nuova emigrazione professionale in collaborazione con il Ministero degli Esteri. Tappa a Boston, Stati Uniti, dove a fornirci i numeri della comunità italiana è il console generale Giuseppe Pastorelli. Gli italiani registrati sono circa 16.000 e stimiamo che all'interno di essi i ricercatori e comunque i giovani professionisti sono 2-3.000. È un flusso crescente negli ultimi 10 anni. Avete qualche percentuale o comunque per dare un'idea di questa crescita? La crescita per esempio dei nostri studenti ad Harvard negli ultimi 10 anni è stata dell'80%, del 70% degli studenti presso l'MIT. E un altro fenomeno interessante è l'aggregazione dei giovani professionisti italiani a Boston, che in 2 anni sono passati da 5 membri a 415. Cerchiamo anche di capire i motivi che portano i giovani italiani a Boston. I nostri giovani che vengono qui a Boston a studiare un corso post laurea in materie principalmente scientifiche ma anche economiche. Terminata questa specializzazione, molto spesso gli viene offerta una posizione o nella stessa università dove hanno studiato oppure in aziende collegate all'università, specialmente per quanto riguarda il settore scientifico. Di fronte a queste offerte, magari mancando alternative concrete in Italia, molto spesso rimangono per un primo periodo. Questo primo periodo talvolta si protrae e diventa una presenza che sono qui da 10-15 anni. Le ha toccato un tasto un po' dolente, cioè la difficoltà di offerte in Italia? Non tutti hanno questo tipo di difficoltà, però statisticamente quello che ho verificato è il fatto che i nostri giovani vengono in quest'area è un fatto naturale, perché normalmente ci si tende a specializzare dove migliore l'offerta accademica. Quindi che ci sia un flusso naturale di giovani che vengono qui a studiare e che rimangono all'inizio anche con proposte di lavoro è abbastanza normale. Il problema è che alcune volte il mercato del lavoro in Italia o non è così dinamico come lo è qui o il mondo universitario non offre le stesse possibilità. In questo mondo accademico di Boston, quanto spesso le capita di incontrare giovani di altissimo profilo inseriti nelle maggiori università della città? Mi è capitato spesso all'MIT, Harvard, ma anche alla Boston University, Tuft, e però vedo che tutti hanno innanzitutto un gran desiderio ancora d'Italia. Questo loro attaccamento all'Italia fa nascere anche delle collaborazioni spontanee che ne ho viste tantissimo. Quello che bisogna fare è rendere questi contatti spontanei più strutturati. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.consboston.esteri.it.